noi abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Buongiorno a tutti, allora con Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, avevamo già preparato effetti speciali, anzi come diceva un vecchio adagio, una vecchia pubblicità, avremmo voluto stupirvi con effetti speciali sulla Juventus che perde a Genova, sull'Inter che continua a correre, sul derby di Roma, però che ci possiamo fare se il lunedì mattina ci ha dato la notizia delle dimissioni di Carlo Tavecchio dalla carica di presidente federale. Questa è la cronaca e da questo cominciamo. 800240024. La pancia degli italiani è stata soddisfatta, adesso ma poi Antonello Valentini ci chiarirà tutti gli scenari anche dal punto di vista giuridico e procedurale. Adesso entro 90 giorni dovranno esserci le elezioni per un nuovo presidente federale. Intanto, mentre Tavecchio non ha ancora parlato, ma dovrebbe esserci conferenza stampa che vi farò sentire se ci sarà e se sarà puntuale dopo le 14:30, le voci di Damiano Tommasi, che è rappresentante, lo ricordo, dei giocatori italiani di calcio, e di Renzo Olivieri, rappresentante degli allenatori. È da mesi, se non da anni, che diciamo che bisogna tornare a parlare di calcio, quindi mi auguro che sia qualcuno che possa parlare di calcio. Te lo richiedo, tu saresti pronto a farlo, te l'ho chiesto prima di entrare, adesso le cose sono fatte. Non è il momento di parlare di questo, è il momento di parlare di progettualità che sia ad ampio respiro e che, come ho detto prima, nelle prossime elezioni federali abbia il massimo consenso. Io ho sempre sostenuto, e i miei insieme a me tutti all'unanimità, perché all'unanimità l'AIAC aveva deciso questo, aspettiamo la Lega di A e di B, questo voleva dire avere senso di forza. Ripeto, se la questione è di medaglie, il presidente Tavecchio come atto politico aveva chiesto anche le dimissioni di tutto il Consiglio, no, ma è un atto politico. Perché poi io non le do le dimissioni, perché se si dà le dimissioni tutti c'è il pericolo che magari arrivi Maragò, perché veramente allora non funzionano le cose. Io dico, rimane il presidente in carica per la gestione ordinaria, rimangono tutti i consiglieri federali, altrimenti arrivano da fuori. Io questo pericolo non lo vorrei correre. Allora, abbiamo sentito Tommasi contro Tavecchio, Olivieri che invece sarebbe favorevole a Tavecchio. Ma adesso, dal punto di vista procedurale, mentre saluto il mio compagno di banco abituale, Pierluigi Pardo. Ciao. Vorrei anche rivedere la scaletta di Tiki Taka, perché immagino che da qui si partirà anche stasera. Sì. Salutiamo insieme Antonello Valentini, che è la nostra guida, il nostro caronte. Esordio a Tiki Taka. Che alimentazione è il nostro caronte, Antonello Valentini. Scusate se vi ho risposto in ritardo, ma ero impegnato a pregare, per usare un eufemismo, i colleghi di Sky da non mandare più in onda immagini di repertorio in cui mi si vede al tavolo del Consiglio federale insieme a Tavecchio, perché cornuto e mazziato siamo un po' troppo. Chiariamo un punto, Valentini, chiariamo un punto. Allora, lor signori che state guardando queste immagini in repertorio, Antonello Valentini non va più parte del Consiglio federale. Sono 3 anni che mi hanno fatto fuori, quindi cornuto e mazziato ti sembra eccessivo. Dipingimi gli scenari, seduta stante, 14:08, 44 secondi del giorno in cui un'ora e mezza fa si è dimesso il presidente federale. Ma guarda, è una gestione, secondo me, da quello che leggo attraverso le vostre notizie, le agenzie di stampa, una gestione veramente sibillina di questo Consiglio federale, perché Tavecchio si è presentato sì dimissionario, ma non ha consentito a nessuno di dire una parola, il che francamente ha parlato di sciacallaggio politico. Sarebbe interessante, adesso certamente lo faranno i colleghi giornalisti che sono sotto gli Allegri, di chiedergli a chi si riferisce. E altrettanto indicativa, secondo me, è la rapidità, ma di questo non avevo dubbi, con cui si è mosso il presidente del CONI Maragò, che nel giro di un quarto d'ora ha convocato per dopodomani la giunta esecutiva del CONI, il che, secondo me, nonostante quello che dice il buon Olivieri, diciamo buon per usare anche più un eufemismo, prelude al commissariamento della federazione, nonostante sicuro al 99%, dai, commissariamento della Federcalcio. Ma certo. E quando... Io penso che questa mossa di Baragò, così tempestiva, così rapida, eccetera, dopo quello che c'è stato nei giorni scorsi, fino a ieri sera, quando Baragò aveva detto si presenterà dimissionario, Tavecchio aveva replicato attraverso l'ANSA, non è vero, poi stamattina si presenta dimissionario, non fa parlare nessuno, tira fuori 10 righe scritte in un italiano improbabile e Sibillino, ripeto, adesso le leggeremo, non so, veramente, francamente, credo che stia facendo soltanto una cortesia a chi vuole il commissariamento della federazione. Quindi allora, ricapitoliamo, rapido riassunto le puntate precedenti, come ci hai spiegato l'altro giorno, la Federcalcio non sarebbe stata tecnicamente commissariabile senza le dimissioni del Presidente federale. Ora il Presidente federale si è dimesso, è molto probabile, sentendo anche Pierluigi Pardo, che la Federcalcio verrà commissariata dal CONI, e poi che cavolo succede, ragazzi? Io voglio capire, Pardo, Valentini, spiegatemi. No, Pier. No, aspettiamo Antonello perché mi sembra il tema di... voglio capire se scende al bar, vogliono... Allora, ragazzi, un annetto da commissario se lo fa, minimo. Questa è il mio feeling. Ma guarda, ma io sono perfettamente d'accordo per te. Conosciamo tutti la bravura e la bellezza di Giovanni Maragò, e quindi 10 anni di goduria sotto tutti i punti, 10 mesi di goduria sotto tutti i punti di vista, no? Non c'è niente da rischiare in questi 10 mesi. La nazionale non gioca partite, certo, ufficiali, non può perdere clamorosamente. E più in basso di così il calcio italiano non può andare dal punto di vista sportivo, e non solo dal punto di vista sportivo. E quindi voglio dire, qual è il piatto migliore per Giovanni Maragò, no? Che di mettersi a capo del calcio italiano. Tra l'altro io resto dell'opinione che, finita l'esperienza del presidente del CONI, quando deciderà di smetterla, o farà il ministro, o farà il sindaco di Roma, o farà il presidente della federazione. Io credo anche che pure Pardo, che è un grande giornalista, abbia intuito questa nota di malizia nelle parole di Antonello Valentini, che in Federcalcio ha vissuto. Penso che Maragò sia bravo, soltanto per chiarirci. Penso che Maragò sia bravo, e penso che in un momento di grande confusione come questa sarà la soluzione più logica, perché comunque sia, e questo, se vogliamo, è il vero tema delle dimissioni di Tavecchio, che alternativa c'è? Tra l'altro, come prevede lo statuto, se arriva il commissario straordinario decadono automaticamente tutti gli organi della federazione. Se voi vi andate a leggere lo statuto della federazione, gli organi della federazione sono il presidente, i vicepresidenti, il consiglio federale, il direttore generale. Sì, ma Olivieri ha detto che vuole restare lì, Antonello. Prego? Olivieri ha detto che vuole restare lì, che lui la poltrona non la molla. Non si è dimesso nessuno, perché Tavecchio stamattina, mi hanno raccontato chi c'era, ha ribaltato la situazione e si è presentato lui chiedendo le dimissioni di tutto il consiglio, io per primo, e lui si è dimesso. Degli altri consiglieri non si è dimesso nessuno, anche perché non hanno avuto neanche il tempo di parlare, non gli ha dato la parola. Quindi se voi leggete le dichiarazioni di Gravina, di Sibiglia, eccetera, vi accorgerete che dei consiglieri federali non si è dimesso nessuno. Tant'è che Tavecchio ha detto: mi dimetto io e gestisco l'ordinaria amministrazione fino alla prossima assemblea, che deve essere convocata per statuto entro 90 giorni. Se invece il CONI mercoledì decide per il commissariamento, decadono tutti gli organi statutari, che sono quelli che vi ho detto: consiglio federale, direttore generale, vicepresidenti, eccetera. E muo' è a Sansone con tutti i filistei, come diceva qualcuno. Perché i filistei, questo è corretto. No, ma il discorso vero è questo, che interessa la gente. Ok, cosa succede adesso? Se tu vai in qualunque piazza d'Italia, in qualunque panetteria, non sto a parlare di bar, che se è banale, tutti si domandano: e adesso chi fa il presidente federale? E tutti dicono che sia Maldini, che sia Albertini, che sia un grande ex calciatore. Io non credo che la soluzione possa essere così demagogica e semplice. Tu, Pierluigi? No, io penso che innanzitutto io ribadisco un concetto che ho espresso più volte in questi giorni. Qui, secondo me, è naufragata una squadra, e quindi è naufragata la parte tecnica di un progetto. Per quanto riguarda il resto, siccome sono coerente con me stesso, io credo che questi anni di Tavecchio siano stati anni con luci ed ombre. Le ombre ci sono, secondo me, la questione dei centri tecnici federali, che sono spesso aperti per poche ore a settimana è un tema vero. Alcune riforme che non sono state fatte, però non, magari non proprio per volontà del Presidente, ma anche per delle forme di conservazione che ci sono all'interno del mondo del calcio, penso alla riforma dei campionati, penso al discorso delle squadre B. Su altre cose, secondo me, la federazione ha lavorato bene dal punto di vista economico, dal punto di vista delle relazioni internazionali con Ceferin, con Infantino, secondo me ha lavorato benissimo, e questo credo che sia oggettivo. Ha comunque introdotto il VAR, siamo stati fra i primi paesi, per cui secondo me è un bilancio lucido. Quello che chiaramente da vecchio non ha di adeguato è la comunicazione. Questo l'abbiamo detto dall'inizio. Sì, se vogliamo il fatto che la sua esperienza si sia conclusa, oggi parla di sciacallaggio, ma cioè lui si è consegnato agli amici delle Iene, al mio amico Niccolò De Vitis, che è stato anche poi carino nei suoi confronti, nel senso gli ha fatto dire. Però insomma si scelgono altre strade, si scelgono altre forme, soprattutto se non sei esattamente un drago esatto, della comunicazione. Perfetto. Io, la mia linea, io quello che avrei fatto fossi stato da vecchio, era l'esatto contrario. Io fossi stato da vecchio sarei andato lunedì sera o martedì a dimettermi e avrei rivendicato alcuni risultati che secondo me sono oggettivi della tua gestione. Anch'io, perché adesso siamo all'emergenza dell'emergenza. No, questo è evidente. Come atto formale dovevano essere presentate immediate dimissioni sia da parte del Presidente federale che da parte del Commissario tecnico. E poi adesso si tratta di aprire nuovi scenari di cui parleremo. Continueremo. Hai ancora 5 minuti, Antonello? Sì. Perfetto. Allora adesso chiamiamo anche il nostro amico Maurizio Crosetti, apriamo un bel dibattitone, cui invitiamo anche gli ascoltatori, 800240024, tema, due punti, futuro del calcio italiano. Subito dopo l'intervallo, la lotta continua! Tutti convocati. Non ha voglia di stare a casa a guardare le partite, vuoi non di occuparsene. Vuoi venire con me in montagna a scalare. Con me? Non ho voglia di stare a casa, voglio di vivere e di camminare e di correre. Non c'ha voglia di farsi i cazzi suoi, Presidente? A casa, a mangiare. No, non ho proprio voglia. Parole divertenti, ma ormai d'antan, perché da vecchio si è dimesso, queste sono le parole lasciate alle Iene. Allora io adesso, sapete cosa faccio? Aspettando la conferenza stampa prevista per le 14.30 di Carlo Tavecchio, quindi una decina di minuti lordi, io mi metto in poltrona e ascolto un bel dibattitone tra Antonello Valentini, Pierluigi Pardo e Maurizio Crosetti di Repubblica. Buongiorno Maurizio. Buongiorno a tutti voi. Va bene. Ciao Maurizio. Allora, ciao Antonello. Allora, la parola di Valentini e di Pardo l'ho già ascoltata. La tua qual è, Crosetti, che speravi di parlare di... Come dicevo l'antica pubblicità, stupirvi con effetti speciali sulla Juventus che perde, sul Napoli che vince, la Roma che vince il derby, bla bla bla. No, oggi c'è dell'altro. Beh, ma bisogna solo decidere a quale crollo di diga dedicarsi, perché voglio dire, dove ti giri c'è qualcosa che cade in questo periodo. No, non mescoliamo il risotto con altre cose. Il calcio giocato comunque rispetto a queste cose è pur sempre materia nobile. Per quanto riguarda Tavecchio, che invece non è mai stato materia nobile, io penso che non si sia dimesso con 7 giorni di ritardo, ma con circa 4 anni, 3 anni e mezzo di ritardo. Anzi, per me la notizia è che fosse riuscito ad arrivare fin lì, che fosse espressione di poteri più o meno forti, alcuni dei quali hanno anche cambiato idea in corsa, tipo Andrea Agnelli, tanto per non far nomi, oppure il suo sodale della prima, della seconda e dell'ultima ora, Claudio Lotito. Ecco, la notizia è che fosse lì, non che non ci sia più. Evidentemente, l'abbiamo detto tante volte, un fantoccio faceva comodo ai burattinai. Maurizio, te lo faccio sentire in diretta, stai lì, te lo faccio sentire in diretta a Tavecchio, che ha iniziato ora a parlare. Allora, spazio ai fotografi, tra poco la prima domanda. Lo avete già sentito, insomma, Tavecchio mi sembra abbastanza nervoso. Ok, sì, grazie Presidente. Prego. Buongiorno a tutti, vedo che siete tanti oggi, siete tanti e qualificati. Ho rassegnato le dimissioni e come mero atto politico ho chiesto anche quelle del Consiglio federale. Nessuno le ha rassegnate, quindi sono rimaste le mie. No. Credo che siamo arrivati ad un punto di speculazione che ha raggiunto limiti impossibili. Il quadro politico fino a questa mattina non era cambiato. La Lega Pro non è stata mai alleata nella maggioranza. Nella riunione della settimana scorsa addirittura mi era stato inviato un documento programmatico che avrei dovuto allegare e io in assoluta buona fede e totale sincerità avevo interpretato un fatto come positivo, non certamente di alleanza, ma con la volontà di costruire qualcosa per questo sistema sportivo. Un sistema sportivo che si permette di prendere decisioni gravi quando il soggetto più importante, che è il fornitore delle risorse del sistema Italia, non solo del calcio, è assente. Quando la Serie A e la Serie B non ci sono. La Serie B eleggerà il presidente il giorno 23, la Serie A il 27. Oggi siamo al 19. Gli 8 giorni della tragedia mondiale del calcio italiano. Sono stato portato ad accettare il commissariamento della Lega di Milano per un atto di assoluta indipendenza della Federazione Italiana Gioco Calcio da chi che sia, non per Carlo Tavecchio. Carlo Tavecchio non faceva il presidente per interessi personali. Il commissario di Milano doveva essere il presidente della federazione, perché quella è la fonte alla quale bisogna fare riferimento e non ad altre, e non ad altre. Questo non è parso un atto di riverenza. Noi riverenze non ne facciamo a nessuno, perché noi viviamo come Federazione Italiana Gioco Calcio di mezzi e di sussistenze proprie che mantengono il sistema calcio. Abbiamo dato 30 milioni al CONI in questi ultimi anni e quasi 50 è la minor contribuzione del sistema politico italiano attraverso i fondi pubblici. Di questi fondi nessun euro è entrato per gli interessi della federazione, sono stati tutti girati per le designazioni e per gli arbitri, perché ci sono 33.000 arbitri che la domenica giocano. Allora ragazzi, queste possiamo andare avanti, andremo avanti, le sentirete tutte le parole, leggerete tutte queste dichiarazioni, però in diretta abbiamo sentito le prime parole di Carlo Tavecchio, dimissionario, molto molto incazzato. Ora io chiedo un commento a Maurizio Crosetti, Antonello Valentini e Pierluigi Pardo. Partendo da Antonello, uomo che ha fatto parte delle istituzioni per 26 anni. Allora, 27. Con pardon, monsieur... non me lo togliere. Desculpa. Dunque, io ho sentito le parole di Tavecchio, non condivido il tono e il taglio che ha dato le sue dichiarazioni. Tra l'altro sta facendo di tutto per favorire il commissariamento da parte del CONI. Perché dire che nessuno del Consiglio federale si è dimesso è vero, lui ha anticipato presentando le sue e chiedendo quelle degli altri, ma non ha consentito a nessuno di aprire un dibattito e di parlare. Questo me lo hanno detto diversi consiglieri federali, perché deve aver preso praticamente atto che non solo i calciatori, non solo la Lega di Serie C, la Lega Pro, ma anche la Lega Dilettanti cominciava a non avere più la forza e la convinzione per sostenerlo e perciò e così si spiega secondo me la decisione di Tavecchio di dimettersi. Guardate, io ho visto ieri sera l'intervista alle Iene, che tra l'altro malizia per malizia mi dicono gli sia stata suggerita da Adriano Galliani, ma questo è una malizia e spero che non sia vero. Detto questo, le Iene hanno fatto benissimo il loro lavoro, però io che ho lavorato 27 anni in federazione ho cercato, e non voglio smentire me stesso, di mantenere sempre un profilo istituzionale, distinguendo la qualità dei rapporti personali dai titolarità dei ruoli professionali. Ho avuto veramente un colpo basso ieri vedendo quella intervista con un presidente della federazione che si mette a giocare a fuoco, fuocherello, fuochino, acqua. Francamente mi ha fatto male, la federazione merita ben altro. Io credo che mercoledì ci sarà il commissario straordinario. Anch'io lo credo, anche per Luigi Pardo. Crosetti, il CONI non può prendersela con tutti quelli che, meglio tardi che mai, lo hanno dichiarato non solo impossibile, non solo irremovibile, ma imbarazzante. E quindi alla fine è chiaro che Tavecchio se ne va. In linea con quello che ha fatto prima, è chiaro che arriva il commissario adesso, non c'è bisogno di immaginare altro, deve arrivare un tempo in cui non ci si deve far guidare dalla fretta. Se n'è andato il presidente federale più che il presidente federale, e adesso però bisogna prendersi il tempo giusto, non per ingaggiare solo un curriculum, certo, o una gloria o un cognome, ma certamente qualcuno che conosca il calcio. Ma non basta arrivare da lì per improvvisare un mestiere così importante. Cioè il presidente federale è un dirigente, chiaro, non chiaro, si può improvvisare, non si può mettere lì Buffon dopodomani. Al di là del sentimento popolare della panza che fin qui hanno governato. Maurizio, io ti ringrazio Antonello Valentini, ovviamente Pierluigi Pardo sta con noi, Pier c'è Tavecchio che sta dando fuori, proviamo a sentire ancora un po' di quello che sta dicendo. Sta urlando come un ossesso. È bello, è anche bello. La Christy Lane si trova in FIFA perché? Chi è che ha fatto queste operazioni? Chi? I gnomi dietro le scrivanie italiche? Allora, voi pensate che io a 74 anni abbia bisogno di sedermi su una sedia dopo che ho fatto 35 anni di banca, 20 anni di sindaco e 20 anni di Lega Dilettanti? Ha detto bene il presidente del CONI che il mondo dei dilettanti, chapeau! Capito, Pardo. On doit parler français, monsieur. Pierluigi? Sì, siamo comunque allo sbrocco più totale. Siamo allo sbrocco. Quindi, come lo valuti? Beh, adesso innanzitutto sentiamo cosa dice da qui alla fine. No, ma io valuto la l'inadeguatezza, soprattutto sul piano della comunicazione del personaggio, la valuto dal giorno zero, non da oggi. Sì, però oggi siamo veramente al minimo storico, eh. Sto facendo la radio con te, quindi non è che sto sentendo anch'io stiamo vivendo questo momento insieme, lui si sente vittima di un complotto, si sente vittima, dice che sono l'unico che si è dimesso, qui nessun altro paga, fanno tutti dietro le poltrone, i risultati che ho ottenuto sono oggettivi, e questo è quello che dice lui. Per fare un'analisi un pochino più completa bisogna aspettare. Questo è chiaro, stiamo facendo proprio cronaca in diretta, stiamo facendo cronaca in diretta. No, che insomma fa effetto sentire appunto una figura istituzionale parlare in questo modo, ma è tipica del personaggio. A me non è che mi ricordo di qualcuno del passato, però sicuramente insomma diciamo la plomb non è esattamente il suo forte. Allora io pubblicamente convoco Giuseppe Cruciani, che sta guardando Tavecchio al di là del vetro, lo convoco qui al volo dopo la borsa per continuare a parlare di questo argomento che mi sembra l'argomento del giorno. Mancherebbero 2 minuti, però mi hanno dato 3 minuti di proroga, quindi posso chiudere alle 23:20, manca 23:24, quindi vai con calma. Tutti convocati. Fineco, la banca numero 1 in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Non è che dovesse schierarsi con l'opposizione, è una scelta legittima che ognuno fa come vuole, quindi non è un tradimento, sono scelte politiche legittime che io non discuto. Calciato, che colpe si dà? Se si dà delle colpe. Delle colpe io, delle colpe forse come non sono intervenuto forse nell'intervallo della partita a Milano per far cambiare l'allenatore. Altro ho fatto tutto normale io. Non ho fatto mai. Una settimana fa non c'erano fibrillazioni politiche, non ce n'erano. Il gol ha cambiato il mondo. Alciato Sky. Ah beh, questo, questo Carlo Tavecchio. Sentiamo Alciato. Sentiamolo. Lega dilettanti, volevo sapere però. La parola tradimento è grave. Cambiamento di politica, che è libera scelta della Lega dilettanti. Volevo chiedere se lo sarebbe aspettato comunque. No, e l'altra cosa no, ragazzi, una domanda per una e allora era la stessa però. Allora la stessa, Alessandro, per favore, Catapano Gazzetta. Ho capito, però Alessandro, se no facciamole tutte. Presidente, una domanda secca. Quante cose ha condiviso in questi mesi, anni con il presidente del CONI? Poche, molte, tutte. Tutte. Vabbè, tutte, allora è chiaro che è una giornata così, è una giornata eminentemente politica. Giuseppe Cruciani l'ho convocato di forza, salve di imperio. Pierluigi Pardo è collegato con noi. Eccolo. Stiamo sentendo conferenza stampa di Tavecchio con toni molto concitati. Sì, ma questo qua non mi stupisce, voi siete stupiti da questo tono non istituzionale di Tavecchio. Siamo abituati, in realtà Tavecchio è uno così, è il vero Tavecchio questo qua, non quello là delle stanze un po' felpate del potere. Tavecchio è una persona di popolo, diciamo, una persona molto, molto genuina da questo punto di vista. Mi verrebbe quasi in questa ordalia contro Tavecchio, come al solito, di prendere le sue parti. Non ce la faccio per vari motivi. La prima è molto semplice: al di là di questi giochi di potere, la gran parte dei tifosi italiani, caro Pier, caro Carlo, io credo che se ne fotta di tutti questi giochi. C'è la Lega Nazionale Dilettanti, sta con questo e poi sposta il suo voto su altri. Gravina è stato nostro ospite, sì, ricordo. Per carità, però tu pensi che qualcuno conosca in Italia chi è Gravina? No, però cioè, tu sai in Italia chi è Gravina? Ma chi è Gravina? È quello perché che controlla il 37%. Ma è una follia, è una follia il fatto che un signore che sarà si chiama Gravina, che non conosco, ha il 37% questa di voti per eleggere legge il presidente della Federcalcio. Siamo alla follia pura. Alla follia pura. Quanti soldi porta Gravina al movimento calcistico? Intera Gravina, per dire, il presidente nazionale della Lega Dilettanti. Per cui è tutta una roba di potere che alla gente non frega nulla. La cosa importante è solo una, ed è la base di tutto. L'Italia dopo 60 anni non va al campionato del mondo. Dopo un evento così importante nella storia del calcio italiano, io credo che oltre all'allenatore si doveva dimettere subito anche il presidente della Federcalcio. Per cui punto e basta. Cioè non è una cosa drammatica il fatto che cambino le persone a un certo punto. Io credo che il presidente Tavecchio, con una settimana di ritardo e per giochi politici, probabilmente probabile che dica lui, abbia preso atto di una cosa che non può essere sopportata dal movimento calcistico internazionale, ma io dico dalla grande massa dei tifosi. Beh, cioè il fatto che se tu non ti qualifichi ai mondiali, vai a casa, si cambia, punto e basta. Non è il dramma, non è il dramma, ma si tratta di capire che succede adesso, no? Sì, allora, se lui fosse arrivato oggi con lo scalpo di Ancelotti in mano, ed è quello che ha provato a fare in questa settimana, con un contratto firmato, con un precontratto, quello che è, Pier sicuramente sarà d'accordo su questo, Tavecchio sarebbe stato, non dico il salvatore della patria, no, ma sarebbe stato accolto in grande trionfo oggi, sarebbe stato accolto come l'uomo che ha risolto un problema, portando un allenatore prestigioso per un programma, diciamo, che ha all'orizzonte ormai di 3 anni, no, sostanzialmente, o comunque di 2 anni. Io voglio chiedere a Pardo questo, un'opinione su questo, perché Giuseppe secondo me non ha torto su questa buttada, e voglio chiedere a Pardo, da uomo di televisione, anche cosa ne pensa dell'intervista ieri sera di Tavecchio, intervista di cui abbiamo sentito un estratto. Ma io penso che Tavecchio paghi al 90% il physical role e la sua incapacità di comunicare. Io credo che sia questo il tema vero. Io non credo che la gestione di Tavecchio sia stata la peggiore gestione della storia della Federcalcio, anche se non sono un esperto in materia. Credo però che il personaggio non è adeguato a un ruolo istituzionale, non lo è mai stato, aveva iniziato in salita in maniera clamorosa, e credo che anche la conferenza stampa di oggi in qualche modo lo confermi. Questo è il vero tema, perché poi secondo me con un altro tipo di profilo, con un altro tipo di allure, un insuccesso clamoroso, storico, come quello che c'è stato, probabilmente sarebbe stato meno imputato a lui. Secondo me sei d'accordo domani, con Giuseppe o no? Domani cambia tutto, domani cambierà tutto, perché probabilmente nei prossimi giorni la Federcalcio verrà commissariata, eccetera eccetera. Ci sarà Malagò che temporaneamente, per un periodo, farà il grande capo del calcio italiano. È o no l'occasione, parlo forse di una cosa che, ripeto, ancora una volta non interessa la stragrande maggioranza delle persone, per cambiare questo modo assurdo per eleggere il presidente del calcio italiano, che poi in realtà non è il vero presidente del calcio italiano, è molto più importante, ha molto più potere il presidente della Lega Calcio che non il presidente della Ma guarda caso, no? Allora, è il capo... ricordiamo che una carica era 36.000 euro lordi all'anno, esatto, quindi... per cui il capo del calcio italiano deve essere uno bravo a gestire il brand Italia, che ancora evidentemente tira, il brand Italia come nazionale, ha la nazionale maggiore, l'under 21, le squadre minori, e promuovere il calcio tra i giovani deve essere un ruolo spesso anche onorifico, e se ti circondi di buoni manager lo potrebbe fare tranquillamente anche un Maldini, un personaggio anche prestigioso nel calcio italiano, se ti circondi di persone competenti, eccetera eccetera. Invece fino adesso è stato un luogo di puro potere. Ancora una volta io ripeto, perché un signore che io sconosco, e qualcuno mi scrive adesso, io conosco la mitica Carla Gravina, cioè questo Gravina, ma chi è per gestire il calcio italiano, il 37% del calcio italiano, come era D'Alessio prima? Giuseppe, ma è designato dai regolamenti. Ma i regolamenti vanno cambiati, va bene, se non ci cambiano i regolamenti, ma di che parliamo? I regolamenti sono cambiati, però in questo caso non è che li puoi cambiare, cioè, sono d'accordo con te. Cioè siamo dipendenti, siamo tutti d'accordo. Siamo i tifosi italiani, il capo dei tifosi italiani, che è Tavecchio, perché chi attifa l'Italia, il capo della federazione è Tavecchio, si rimette oggi perché un signore che si chiama Gravina cambia opinione una notte, chissà per quali motivi. Ma siamo alla follia o no? Siamo alla follia o non siamo alla follia? Certo. Siamo alla follia pura. Siamo, cioè, non follia. C'è una decisione. Sarà di un follia, organo preposto importante. Sono i cambiamenti di umore ancora, o di interessi di un signore che si chiama Gravina, o di un altro signore che è un allenatore, diciamo, che non ha avuto questi trionfi nella storia, che si chiama Ulivieri, ex come dire, marxista, ex esponente della sinistra estrema italiana, il quello quale improvvisamente si mette col Democristiano Tavecchio. Ragazzi, perfetto, ma di cosa parliamo? Parliamo, cioè, di umori, parliamo di Ulivieri Gravina, gli umori di Ulivieri Gravina. Dai, parliamo su del regolamento. Parliamo me ne del foto, cambiamo. Se fosse uno moderno, fosse uno innovativo, direbbe: dobbiamo cambiare il modo di eleggere il presidente della federazione. Basta personaggi espressi dai dilettanti che non contano un cazzo, dagli allenatori che non contano certamente, ma si dessero un altro presidente, perché è inconcepibile vedere uno che si chiama Ulivieri, che ha fatto sempre una battaglia contro Tavecchio, che improvvisamente, per interessi che abbiamo letto tutti quali sono, interessi degli allenatori, naturalmente non suoi personali, comincia a stare dalla parte di Tavecchio, essendo i due agli antipodi. Per cui questa cosa di piccole camarille, che ricorda un po' il Parlamento italiano, mm-hmm, si riproduce incredibilmente sul calcio italiano. E questo è il punto, dai. E questo è il punto. Dai. Regolamenti sic stantibus. Vabbè, sì, tu ti fissi, sì. Ma che sei? Il coso? Che ti fisso? L'avvocato di Tavecchio. No, sono avvocato di nessuno. Leggi la legge, Giuseppe. Che la legge è questa. O la cambiamo o rimane questa qui. Va benissimo. Ok, la cambiamo. Una puntata davvero eccitante, piena di sorprese, piena di colpi di scena, e non è tutto. C'è ancora un'ultima grande sorpresa. Tutti convocati. Tutti convocati. C'è stato bisogno di aspettare molto, nemmeno fino a mercoledì, perché Malagò, presidente del CONI, ha detto la Federcalcio sarà commissariata. E siamo anche dei profeti, no? Con un quarto d'ora d'anticipo l'avevamo previsto. Era già tutto previsto. Sentiamo qualcuno, perché in realtà, no, Carlo, che dici? Sentiamo ascoltatori. No, perché Luigi, Massimo, non vogliamo stare dietro i regolamenti, questa roba, sono cose noiose, no? Ragazzi, saranno noiosi, però io sono cose noiose, nel senso che è veramente noioso stare dietro. Io ho queste... buttato via anni sui libri di legge. No, ma anch'io, per carità. Allora, vabbè, dai, che a fare. Luigi, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Come al solito, secondo me finisce in cacciara, no? Nel senso che nell'attenzione tra il brutto, sporco e cattivo Tavecchio e il bell'uomo Malagò, chiaramente tutti addosso a Tavecchio, la quale secondo me dal punto di vista, diciamo, tecnico-calcistico, l'unica vera grande colpa è quella di non aver cacciato Ventura quando si capiva che nell'intervallo nella partita di Milano, ma è vero, ha ragione. Ecco, non era l'intervallo di Milano, dopo la partita di Madrid, no? Dopo Madrid era il momento perfetto, ma anche dopo la prima partita in Svezia l'avremmo andato io. Ecco, esatto, vabbè, lì magari c'era poco tempo oggettivamente, ma quando lo spareggio, siamo andati a giocare in modo assurdo a Madrid al primi di settembre nessuno chiedeva la testa di Ventura all'epoca, perché pensavamo tutti di andare al mondiale. Ma non l'ha detto nessuno che Ventura non fosse un fenomeno, che non fosse Conte, lo sappiamo benissimo, ma non c'è, io non mi ricordo se c'è qualcuno, basta, ormai questo è un mondo dove tutto rimane scritto e ci sono, dove la gente cambia opinione in tre secondi. Se c'è qualche collega che durante l'estate di due anni fa, di fronte alla scelta di Ventura, ha detto non andremo ai mondiali, sono pronto a ricevere, ospitiamo e pubblichiamo, però ci devono essere le cose concrete. La realtà è che nessuno di noi se lo aspettava, tutti pensavamo ovviamente che Ventura non fosse Conte, ma ricordiamoci pure che Conte non è che è stato mandato via da Tavecchio, Conte è stato preso da Tavecchio tre anni fa e se n'è andato su a Sponte, e le altre scelte normale erano, con tutto il rispetto, Zaccheroni, il nostro amico De Biasi, che probabilmente avrebbe fatto meglio, ma insomma eravamo in quell'ordine di grandezza lì. Ci fu la suggestione Montella e ricordo ancora una volta che giustamente, sottolineo giustamente, buona parte della stampa italiana sottolineò il fatto che la federazione non si era piegata a questo presunto, perché poi è presunto endorsement di Renzi, del Consiglio, sì, ero d'accordo ovviamente, perché non è che dovessi i presidenti del Consiglio a decidere l'allenatore, anche se c'è stato un presidente del Consiglio che ne ha deciso di dimissioni, ma questo è un altro storia, un altro film, lasciamo stare. Massimo da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie Genta, congratulazioni a lei e a Pardo, saluti anche a Cruciani. Andiamo Massimo che siamo di corsa. Sì, io penso che il problema non sia quello del commissariamento della Federcalcio, il problema dello sport italiano è più ampio. Malagò l'altra sera da Fazio citava anche quello che aveva detto il ministro Lotti, che il calcio è da rifondare, però mi chiedo, negli ultimi 10 anni quali squadre italiane hanno vinto qualcosa? Il rugby, la pallavolo, il basket... Però, ragazzi, diventa difficile. Sì, ma infatti, quando uno dice in televisione, nelle interviste, lo sport italiano e poi crisi, il calcio italiano è da rifondare, a me mi vengono le mani nei capelli, perché sono le stesse persone che sono preposte a risolvere problemi, non a denunciare, non a proclamarli problemi. Lo sport, il calcio italiano va rifondato. Ora, cosa vuol dire concretamente? Bravo, cosa vuol dire cosa concretamente il cosa calcio? Cosa vuol dire? Che volete dare più spazio ai giocatori italiani? Il problema vero è che oggi. Gli stranieri spesso costano meno e allora non è così automatico. Abbiamo vinto i mondiali nel 2006 quando già c'era una cosiddetta invasione degli stranieri, ma a livello anche giovanile, per questa cui è demagogia, questa è demagogia. Ma poi è dimostrato che negli altri campionati stanno messi come noi, ma chiaro, Spagna, ma non possiamo la Spagna, guarda, la Spagna più spagnoli, perché la Spagna è il paese che ha dominato gli ultimi 10 anni del calcio mondiale e quindi hanno giocatori di maggiore talento e giustamente se li tengono stretti. Sì, poi hanno anche leggi diverse, cioè io, scusate se ritorno sul tema della legge, ma cosa facciamo? Andiamo contro normative comunitarie? D'altra parte c'è la libera circolazione dei lavoratori, no? Mi pare, mi risulta. Matteo, provincia di Treviso, poi purtroppo dobbiamo chiudere, se no andrei avanti altri 3 giorni a parlare di questo tema che mi appassiona molto. Matteo, dica. Sì, buongiorno. Beh, Cruciani, come sempre, il numero uno del mondo, perché c'entra sempre... mondiale, globale, totale, sì. Sì, sì. No, dicevo, Tavecchio comunque paga il fatto che si presenta malissimo, perché è un vecchietto piccolino, cognome sfigato, parla male. È vero che a molte persone... Io a me non me ne frega assolutamente nulla, perché l'estetica in questi casi non è importante, però è vero che per una parte di opinione pubblica e soprattutto per una parte di addetti ai lavori, vuol dire, l'aspetto di Tavecchio, il suo modo di parlare, tipo Bai e quant'altro, sta coppola eccetera, non ha mai giovato a Tavecchio. Ma è questo, è inadeguato, è un'epoca questa. Vabbè, che vuol dire però, Pier? C'è un signore molto elegante che sta parlando, ragazzi, scusatemi, è Malagò. Malagò. Ci sono dei rumors di scricchioli e ci aggiungi che due componenti neanche esistono, quella della Lega di A e della Lega di B, non è che serve, scusate, lo dico, uno scienziato per arrivare alla conclusione che avevo tirato da qualche, cioè avevo individuato già da qualche ora, solo questo. Tanto mercoledì giunta straordinaria del CONI, immaginiamo che sia. Sì, guardi, noi adesso, io veramente oggi stiamo seguendo questi lavori che mi hanno detto anche molti colleghi vostri, sono particolarmente interessanti, anche perché non ci stiamo facendo sconti all'interno del nostro mondo, senza autoreferenzialità. Non conosco neanche gli interventi che fanno i relatori. Ha annunciato quello che era chiaro. Però immaginate voi se fosse riuscito a Tavecchio il colpo Ancelotti. Uno e due, Pier e Carlo, secondo voi Ancelotti ha dato una spallata a Tavecchio per poi tornare dopo? Secondo me sì. Per me Ancelotti non vuole essere utilizzato, a me risulta, né da una parte né dall'altra, ma ho fatto un tweet ieri e so che anche Alessandro Alciato la pensa come me, che Sandro Sabatini la pensa come me, insomma, e quindi evidentemente siamo più colleghi che hanno avuto lo stesso tipo, cioè? Di verifica. No, che Ancelotti in realtà ci pensa, esatto. Vuole capire che progetto è, sì. Non ha detto di no a Tavecchio dal punto di vista al 100%, ha semplicemente detto a Tavecchio, ha fatto capire a Tavecchio di non utilizzarlo per fare campagna elettorale per rimanere. Perché non l'ha detto Ancelotti, scusa? Non l'ha detto perché saranno anche fatti fuori, cioè, no, ho capito. Non è mica obbligato a dire tutto. No, però non ha mai parlato, quindi dice ti sto pensando. Io ecco, per esempio, una cosa secondo me, facendo l'esegesi del è importante per il futuro della nazionale e anche per la sopravvivenza dei presidenti federali è quella di trovare delle figure di riferimento dell'area tecnica. Per esempio, se Ancelotti diventasse il CT della nazionale e avesse anche con dei suoi collaboratori la supervisione di tutta l'area tecnica, a quel punto il prossimo presidente federale potrebbe occuparsi del resto. Secondo te, scusami, una cosa finale, Pierre, ma secondo te se Malagò oggi chiama Ancelotti? Perché comunque il commissariamento durerà quello che durerà, almeno un anno. Lui accetta? Non credo che sia un discorso di oggi. Io credo che Malagò, ma faccio per dirti, anche lo stesso Tavecchio, se fosse rimasto, chi le fa anche le amichevoli? Tipo Lippo. Ragazzi, allora, allora vi devo fermare io perché è finito. Allora vi riconvoco domani ufficialmente. Così poco che te devo dire? Vi riconvoco ufficialmente domani e torniamo su questi temi. Giuseppe Gruciani, Pierluigi Pardo, ufficialmente. Giorgio De Luca, Gianmarco Ferronato, ciao a tutti.